L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti da Achille Corea, buon pomeriggio al popolo dell'Italia vista dallo spazio. Ormai c'è il popolo di Twitter, il popolo di Facebook, il popolo degli incolonnati al casello, c'è anche il popolo dell'Italia vista dallo spazio. Eccovi qua, puntata numero 3. Io che sono Achille Corea, l'ho detto, sì, perché certe volte me ne dimentico. Noi siamo il programma che ogni giorno cerca un oggetto che rappresenti l'Italia da inserire in una nostra navicella spaziale virtuale, da lanciare nell'etere, nello spazio, per dire: questa è l'Italia, questo almeno è quello che l'Italia vorrebbe essere. Posto numero 2, in attesa di assegnazione. Sapete come funziona, no? Noi ogni giorno trattiamo un argomento particolare dell'Italia, degli italiani, dell'italianità, e poi vi diamo 24 ore di tempo e voi potete votare in tutti i modi possibili e immaginabili che noi vi diamo. Ieri abbiamo parlato di sportivi, vi abbiamo chiesto di scegliere uno sportivo simbolo per l'Italia che vogliamo e sono arrivati, devo dire, tanti voti e tanti nomi, però c'era un nome, visto che alla fine ne dobbiamo scegliere uno, un nome che ritornava più e più volte su Twitter, su Facebook, negli SMS, nelle mail, nelle telefonate, ed era il nome di Alex Zanardi. Alex Zanardi, te la senti? Buongiorno, io sono imbarazzato, però devo dire ho la pelle d'oca, perché di manifestazioni di affetto ne ho avute tante dalla gente, ma questa mi tocca davvero, non so che cos'altro dire, grazie davvero. Alex, benvenuto all'Italia vista dallo spazio. Beh, guarda, io ti devo leggere anche, perché noi chiediamo anche una motivazione, una che ci è piaciuta, di un utente su Facebook, si firma Colomba, e che ha scritto: Alex Zanardi ha pilotato i bolidi di Formula 1 con le gambe, guida le biciclette con le mani, pensate che non sarebbe in grado di guidare una navicella la spaziale anche solo con il naso, cioè guarda, questa forse era sufficiente. Te la senti di rappresentare l'Italia sulla nostra navicella virtuale? Dici tu, chi me lo fa fare in questo periodo? No, te la senti? Ma io nella vita ho avuto la fortuna di fare tante cose, questa mi manca, quindi perché no? Detto questo, ripeto, è un grandissimo onore, quindi lo farò al meglio delle mie capacità, sempre col tricolore ben issato, e davvero sono davvero orgoglioso di essere stato scelto per questo compito così particolare. Ti chiediamo una cosa: noi cerchiamo sempre di mettere un oggetto, un'immagine, qualcosina che rappresenti la persona o chi, diciamo, abbiamo, l'oggetto che mandiamo. Cosa ci regali da mandare, da mettere nella navicella? Beh, siccome il viaggio è lungo, mi porterei la pasta e il grana italiano, perché almeno guarda, ho di che cibarmi nel modo adeguato. Sei nello slot numero 2 e nel numero 1 c'era la parmigiana di melanzane, quindi sei in buona compagnia per ora. Però la parmigiana è pesantuccia, poi ti viene un abbiocco e perdi di vista, come dire, la traiettoria ideale. Va bene, ma ce la farai. Grazie Alex Zanardi, il posto numero 2, il posto per lo sportivo nell'Italia vista dallo spazio è tuo. Posto numero 2, assegnato. Noi le faremo ascoltare un grande motore. Sì. Lei ci deve rispondere a quale macchina appartiene. Sì. Lamborghini Diablo modello Roadster. Esatto! La trazione integrale, la velocità da 0 a 104 secondi, il costo è di 402.576.000, chiavi in mano. Mortacci! Era facile. Ma è fantastica, signori, è fantastica. E questo era Carlo Verdone nel film Gallo Cedrone, in cui interpretava un personaggio in grado, in un telequiz, di riconoscere la marca e il modello di ogni auto dal rombo del motore o anche solo dal rumore della portiera che si chiude. Avrete già capito che nella puntata numero 3 dell'Italia vista dallo spazio parliamo di mezzi di trasporto e vi chiediamo di scegliere un'auto, una motocicletta, uno scooter, qualcosa di italiano. Poi noi ne manderemo un pezzo da lanciare nello spazio come nostro simbolo. Alex Zanardi, ce l'abbiamo ancora? Alex, sono qui. Senti, allora io come faccio a non chiedere a te, che hai guidato di tutto, cosa manderesti come, diciamo, simbolo della nostra della nostra capacità di inventare e guidare automobili nello spazio? Beh, se parlassimo di capacità di inventare bisognerebbe dire la Ferrari, però c'è un altro mito molto più popolare che è quello della 500, e siccome è la gente che mi vuole bene, io sono vicino alla gente, scelgo decisamente un prodotto assolutamente popolare, di grande successo, che è stato appunto la 500. Va bene, grazie Alex, grazie anche per questo tuo voto, il primo di oggi. Gli altri noi li aspettiamo su Facebook alla pagina Italia Vista dallo Spazio, su Twitter potete mettere l'hashtag Cancelletto dallo Spazio, soprattutto all'800240024. Vi chiediamo, insomma, ce ne sono di ogni tipo: la Ferrari, la 500 che ha detto Alex Zanardi, la Vespa, qualsiasi mezzo italiano vi venga in mente, l'importante è che ci diciate perché. 800240024. Partiamo dalla Ferrari, sì, perché abbiamo un primo esperto per darci qualche stimolo. È con noi il dottor Luciano Casolari, benvenuto. Buongiorno. Eccoci, allora Luciano Casolari, lei è medico, psicanalista, ha un blog sul sito del Fatto Quotidiano ed è autore di un libro che si chiama Psicoanalisi della Ferrari, quindi insomma quale persona migliore per chiedere che rapporto hanno gli italiani con questa automobile, con questo marchio? Ma sicuramente la Ferrari negli ultimi decenni ha assunto un significato mitologico, così come nelle società antiche i miti erano gli eroi, Ulisse, Agamennone, Achille. Nella nostra società i miti sono i personaggi sportivi e oggetti come appunto questo che è la Ferrari, che per noi italiani ha un significato simbolico importante. Le devo chiedere una cosa, proprio una domanda da uomo della strada. In questo momento di crisi, in cui c'è anche, diciamo, a volte un certo astio nei confronti di certa ricchezza, di certa ostentazione, la Ferrari è più o meno mito dei periodi, diciamo, laddove ce li ricordassimo, di non crisi? Ma guardi, io poi abito in una zona che è quella di Modena, dove chiaramente c'è anche un significato affettivo, perché poi in realtà la costruiscono persone che sono degli appassionati, sono delle persone che lavorano come operai all'interno della fabbrica e che sono degli appassionati. Io non credo che abbia questo significato come negativo, come dire ma questo è un riccone, quindi qualcuno lontano da noi, ma soprattutto nella nostra zona ha il significato positivo che è colui che è riuscito a mettere su una sua attività, a produrre del denaro, ad arricchire se stesso ma ad arricchire anche gli altri. La nostra fino a poco tempo fa, purtroppo adesso col terremoto c'è un po' questo problema, ma fino a poco tempo fa era una zona di piccoli arricchimenti, erano piccoli imprenditori con una fabbrichetta di 20-30 operai o 50-100 che riuscivano a elevarsi partendo da una situazione anche di povertà iniziale per raggiungere anche dell'eccellenza a livello internazionale. Diciamo che è un po' la versione italiana del sogno americano, se vogliamo sintetizzare. Le chiedo un'ultima curiosità, ce la chiudevamo sentendo le persone che volevano partecipare, votare, eccetera. Perché è la Ferrari al femminile, ma poi quando se la comprano diventa, mi sono fatto il Ferrari, diventa maschile? C'è un significato anche sessuale dietro questa cosa, no? Perché il cavallino rampante sicuramente ha un significato simbolico un po', l'uomo che si compra un'automobile di questo tipo con i cavalli, con la potenza dell'automobile ha questo significato anche di tipo sessuale. È simbolico anche quel senso. E c'è l'idea che se tu hai un'automobile di questo tipo e vai nelle zone del centro delle città, riesci ad ottenere delle donne meravigliose. Ecco, sì, diciamo la verità, credo che se si scoprisse, non so se sia vero, sì, però credo che se si scoprisse che con le automobili non si rimorchia più, entro una settimana fallirebbero diversi concessionari. Grazie al dottor Luciano Casolari, grazie per essere stato con noi. Arrivederci. Affitta una Ferrari per essere a mio pari. Affitta una Ferrari, tu non avrai rivali. Ed è vero che la Ferrari magari non è alla portata di tutti, però potete seguire il consiglio dei New Tecnici, questo gruppo reggae reggae veneto. Pensa, se noi italiani non siamo creativi, ci siamo inventati i gruppi reggae veneti e magari, non so, affittarla. Diciamo, è una scelta aspirazionale, è una scelta per mandare in giro le cose anche più belle, più lussuose dell'Italia, ma non è appunto l'unica scelta. E ne vorrei un'altra dalla nostra prossima ospite, che è una giornalista, dirige il settimanale A, è Maria Latella, benvenuta. Bentrovati. Allora, Maria Latella, noi abbiamo scoperto da un'intervista che abbiamo trovato in rete che lei è un'appassionata della 500. Sentivo prima parlare di Ferrari e certamente se la Ferrari è un sogno molto maschile, la 500 è un aggancio molto femminile perché? Perché è una auto piccola che corrisponde a dei canoni estetici graziosi, no? Se dovessi abbinarla a un pezzo classico della moda italiana, della moda internazionale, direi che la 500 è nel settore delle auto, nell'immaginario collettivo, quello che nel mondo del lusso, quindi su un altro pianeta, perché la 500 non è lusso, ma nel mondo del lusso potrebbe essere la piccola giacca nera di Chanel. Beh, è la, diciamo, questa scelta della 500, se vogliamo, è anche una scelta simbolica. Io immagino che uno che sceglie come simbolo e come auto la 500, uno che sceglie la Ferrari, al di là delle scelte uomo e donna, abbia anche un'idea di come gli piace vedere l'Italia un po' diversa. Beh, ma ha un'idea di praticità. Le donne sono pratiche, la 500 è bella perché è esteticamente gradevole, nella sua linea moderna, nuova, della nuova 500, è cromaticamente, corrisponde a criteri molto importanti per le donne perché è un criterio di praticità, è piccola, si usa bene, si parcheggia bene ed è bella, è esteticamente gradevole. Se ci fosse una conferma necessaria in più di quanto dico, io che sono per motivi familiari molto spesso a Parigi, ecco, non avete idea di quante 500 circolino e di quanto i parigini amino la nuova versione della 500, ce n'è una quantità infinita e nella città che fa dell'estetica un punto di forza è una conferma in più. Beh, questo ci fa molto piacere perché così dimostriamo che è un orgoglio non solo del passato, non solo di un tempo, ma anche un orgoglio odierno e attuale. Grazie a Maria Latella per essere grazie stata con voi. Noi. Grazie. Fiat presenta una macchina. Sedili per davanti e per di dietro. Finestrini abbassabili a piacere. Più benzina ci metti e più lontano vai. Le marce a seconda del traffico. Vetro davanti trasparente. Motore a duplice stato, acceso o spento. Volante perfettamente girevole. Sportelli apribili sia da dentro che da fuori, grazie alla doppia maniglia. Luci per la sera. Rotelle in gomma per non sentire i bozzi. I pedali per i piedi. Questa è una macchina. Una macchina. E beh, noi questo pezzetto ovviamente è una pubblicità finta tratta da Niene 2 di Corrado Guzzanti, lo abbiamo scelto un po' perché Corrado Guzzanti, che è un genio pigro, ogni volta che abbiamo una scusa per sentirla o per sentirlo ci fa piacere, è un po' perché è un po' anche una presa in giro dell'epica delle auto che se gliela vuoi dare e non ce l'hanno, c'è poco da fare. Mentre alcune macchine, alcune moto, alcuni veicoli, senza pubblicità, senza nessuna forzatura, ce l'hanno da soli. Abbiamo già un po' di chiavi di lettura. Vediamo ad esempio se è vero che la 500 è una scelta molto femminile, la Ferrari è più una scelta maschile. Vediamo un po' cosa ne dicono i nostri ascoltatori. Io vi ricordo i nostri metodi per proporci e votare. Facebook, Italia vista dallo spazio è il nome della nostra pagina, cancelletto dallo spazio è il nostro hashtag, il nostro numero di telefono è 800 24 00 24. Aldo da Udine. Ah, salve, io manderei nello spazio una Riva anni 60, tutta con lo scafo in legno. Un motoscafo, stiamo parlando di un mezzo. Sì, perché? Di un mezzo, perché è la bellezza del design, il dominio dell'uomo sui materiali naturali, che in questo caso è il legno, l'ebbrezza della libertà che ti offre cavalcare le onde, ha tutto un suo fascino quel motoscafo. Ma sento un certo entusiasmo, ce l'hai il motoscafo? No, ho avuto l'opportunità di salirci sopra e anche di navigarci, ecco. Va bene, e grazie. Allora, è una scelta in più, perché se no, noi non siamo legati solo alle quattro ruote, alle due ruote, è un veicolo italiano, quindi segniamo anche un voto per un motoscafo Riva. Riccardo da Brescia, pronto? Ciao. Qual è il tuo voto e la motivazione? Allora, la motivazione è perché visto che in Italia siamo fautori dell'innovazione, è giusto anche vedere un po' più avanti di quello che è il retro. Giusto. E unirlo all'innovazione, quindi lancerei nello spazio appunto questo nuovo scooter elettrico prodotto totalmente in Italia da un gruppo di aziende che si chiama MEMI. Va bene, lo prendiamo come voto, perché altrimenti rischiamo che questa immagine che mandiamo nello spazio sia sempre un'immagine un po' vecchia, un po' nostalgica, di un'Italia magari di un tempo che non c'è più. Quindi anche uno scooter elettrico. Il discorso che facevamo prima, Ferrari per maschi, 500 per donne. Sentiamo Giulia. Ciao, buonasera, buongiorno. Ciao Giulia. Giulia, tu stai partendo per un viaggio in 500? Esattamente. Io non mi imbarco in questa impresa. Non so se ci arriverò, ma sì. Allora, raccontaci prima di tutto con chi vai e dove vai. Vado in compagnia della 500, nel senso da sola, io e lei. Parto da Roma e vado seguendo una serie di tappe in un viaggio che durerà, immagino, un paio di settimane. Vado verso nord, attraverserò l'Italia fino in Piemonte, poi la Svizzera, la Germania, poi passerò in Belgio e finirò in Olanda. Questo è. Di che anno è la 500 con cui lo fai? La 500 è del 74. Ok, che è anche il mio anno di nascita, quindi la sento molto, molto mia, molto vicina. E siccome io non ce la farei a fare questo viaggio, la mia domanda è, gliela fa? Cioè, ti senti pronta su questa 574? Come ti sei preparata? Io spero che ce la faccia. Ho studiato, devo dire. Sto studiando. Mi sto preparando a ogni eventualità, problema che si potrebbe presentare, spero di no, però insomma... Perché tu lo sai qual 500... è la cosa che si dice, no? Le macchine tipo 500 sono belle, ma poi se succede qualcosa... No, invece è proprio quello il bello, che se succede qualcosa la aggiusti molto più facilmente di qualsiasi altra macchina... La 500 è solo pura meccanica, non ha elettronica come adesso in queste macchine, per cui non ci puoi mettere le mani. La 500, non so. Una macchina artigianale. Sì, grandi consigli di Tony, il mio meccanico. Se ti rompe la cinghia di trasmissione, prendi una cassa di nylon, ce la metti e ci fai altri 2000 km. Grazie a Giulia e buon viaggio. Grazie a voi. E Chiappini ci fa ripartire con la sigla di Lupin, storico cartone animato anni 70, che di un cartone animato giapponese, di un ladro di origini francesi che guidava una 500 italiana, perché quando una cosa è metafora e simbolo internazionale, c'è, stavo guardando i messaggi al 349-238-6666, c'è un sms che aspettavo dall'inizio: nello spazio ci manderei le auto blu con dentro i politici. No, noi nello spazio ci mandiamo le cose che ci piacciono, le cose che non ci piacciono, proprio fuori. Ad esempio Sandro ha scelto la Lambretta, Emanuele da Bologna ha scelto una delle auto di Nuvolari, che io sinceramente non mi ricordo che auto guidasse, ma adesso parliamo di due ruote invece, perché al telefono con noi c'è Nico Cereghini, benvenuto. Ciao a tutti, eccomi qua. Nico, grande e storico tester di motociclette, giornalista, pilota, insomma, parlare di due ruote con te è quasi scontato, anche perché qui ancora non abbiamo ben sviscerato l'argomento Vespa. Uh-huh. L'argomento Vespa, certo. Che se non è un simbolo dell'Italia, quello non saprei proprio cosa considerare. Certamente, la Vespa sì, ha rappresentato la motorizzazione individuale in Italia ancora prima dell'auto, perché naturalmente era un mezzo più abbordabile per l'operaio e l'impiegato, quindi è tutta una storia del dopoguerra. Il prototipo, il primo, è il Paperino del 1945, e poi piano piano dal 1946 in avanti è stato un crescendo fino ad arrivare a milioni di vespe costruiti ogni anno, cioè un fenomeno spaventoso che poi è diventato anche mondiale. Qui su Twitter vedo un botta risposta tra vespa e lambretta, che effettivamente sono due cose diverse, diciamo la lambretta viene prima, però insomma come spirito siamo lì. No, beh, sai, sono più o meno contemporanee, però la vespa aveva una grandissima originalità, e cioè aveva il telaio in lamiera stampata, quindi una carrozzeria portante, mentre la lambretta aveva un telaio classico con un tubo d'acciaio, e poi la vespa aveva questo suo motore laterale che la rendeva un po' sbilanciata, perché andavano via un po' tutte storte le vespe, soprattutto le prime, però non avevano trasmissioni, cioè il motore era collegato direttamente alla ruota. Insomma, era un progetto geniale, molto molto geniale, che industrializzato è diventato anche vincente perché costava molto meno della lambretta ed è piaciuto molto, enormemente di più della lambretta. Senti Nico, perché secondo te la vespa piace moltissimo agli stranieri? Beh, la vespa, come tanti brand italiani, insomma, direi che la vespa ha nelle sue forme, delle forme inconfondibili, bellissime, fuori dal tempo, non sono piaciute all'inizio perché è il primo modello del 48. Non è stato un gran successo, anche noi giornalisti l'avevamo abbastanza snobbata, leggo sulle cronache del tempo che non piaceva a nessuno, ma già al terzo anno cominciava a incontrare il favore di tutti, perché sono forme fuori dal tempo, sono perfette, un po' come in campo auto il maggiorino della Volkswagen, cioè forme che non possono non piacere. Poi ci sono stati naturalmente anche tutta la cinematografia, no? Vacanze romane è stato del 53 con Audrey Hepburn e Gregory Peck, è stato il film che ha lanciato la vespa anche in America e quindi è piaciuta subito. E ancora poi negli anni 90 con Moretti, che piace molto in Francia, cioè ancora abbiamo visto un regista in vespa. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo per essere stato con noi, ricordiamo anche il tuo libro Casco in testa ben allacciato, che è un po' il tuo slogan, lo diamo anche ai nostri ascoltatori, e grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Effettivamente ci ricordava Nico Cereghini il mito della vespa legato anche alla cinematografia degli anni 60, e questo era un piccolo contributo della cantante giapponese anni 80 Kei Mikari, che insomma ricordava diciamo questo mondo e questi film che anche all'estero insomma non dimenticano mai. Ma parleremo anche di cinema prima o poi all'Italia vista dallo spazio. Vogliamo sentire un altro ascoltatore, Roberto da Modena. Pronto? Pronto, eccolo qua. Modena, patria dei motori, che cosa scegli? Patria dei motori, ho scelto la lambretta, al di là del fatto tecnico, perché andava dritta e le vespe dei miei amici andavano storte. Ah, questa no? È un'accusa forte. Ma per un fattore del tutto personale che non so se sia raccontabile in fascia protetta, ma io avevo quella con il sedile lungo. E un pomeriggio che per terra c'era del fango, con la ragazzina di quel periodo, su quel sedile lungo ci abbiamo fatto l'amore. Per cui lambretta tutta la vita, adesso ho 62 anni. Come faccio a dirti di no? Cioè, scriveremo lambretta col sedile lungo, perché sulla lambretta col sedile lungo si faceva l'amore. Grazie Roberto da Modena. Noi andiamo tra un po' a chiudere, però io vorrei segnalare un po' di voti arrivati su tutte le nostre varie piattaforme, perché voi potete continuare a votare. Lo dico anche a quelli che ascoltano la replica, non vorrei che si sentissero trascurati quelli della replica delle 20:30. Potete continuare a votare anche su Facebook alla pagina Italia vista dallo spazio, abbiamo raccolto già un bel po' di voti, c'è anche chi dice la bici Graziella, il sì della Piaggio, ci sono veramente tante cose da votare, e voi continuate a farlo anche alla mail che vi darà App 9000. Ringrazio Alessandro Chiappini e Antonella Migliaccio, da Achille Corea grazie a voi e ci sentiamo domani. Posto numero 3, in attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.